Ok. Troppo. Anche lì, no, no, no, è perché. Cos'è? Nel tripo. Ah, me ne sono andata. Nel tripo mi devo girare proprio. Ah, sai che non sì? Ho. Vai, sì. Cos'è? Sì, sì. Sì, no? Che passo faccio passo invece di passo, ecco il step. I passi diventano il twist, sì, che ti danno poi la spinta per fare il giro nel giro. Sì, sì, nel triple giro, ma sì. Tirare contro i triple step è proprio difficile per loro. Vediamo. Imparano. No, lo proviamo. Nel riscaldamento dobbiamo iniziare a farlo, quindi la lezione prima dobbiamo iniziare a metterlo. È vero, sì, perché iniziamo a farlo. Esatto. Quindi sì, un po'. Perderemo un po' di tempo a farlo, ma carino, non l'hanno mai fatto, fanno una cosa nuova. Ti posso fare un giro con la sì, un giro sì. Follower? Perché? Yes. Sì, perché quello è quello nuovo per te. Faccio prima una. Uh-huh.